concept of your sound. Semplificazione di sonorità elettronicamente mista. Turbo Electro DJ Rotation Ultrasound. È un'esclusiva by Stefano Calonico e Atti DJ. 7 giorni sono passati, nuovo viaggio elettronico, bentornati ragazzi, eccoci di nuovo insieme direttamente dagli studi del MEF Staff. Stiamo per iniziare un nuovo appuntamento di Ultrasound, come al solito la voce sono io a tenervi compagnia, Alessio Campanelli, regia agli amici Stefano Calonico e Atti DJ. Anche questa settimana tante le novità musicali per quanto riguarda i dischi che i nostri due DJ andranno a miscelare. E a proposito di novità, volevo ricordare per coloro i quali ancora non lo sapessero i nostri partner, ovvero il Night Portal, Notte Insonne, l'etichetta disco Frequenza Rec e Tendenzia Radio Show. Bene, dall'altra parte del vetro mi fanno cenno che è tutto ok, allora andiamo subito con il primo disco di questa settimana. Ritmo ipnotico e mix con funky fanno la differenza su questa traccia del beat latineggiante e sintetizzatori minimali. Uscita per la Maschine LTD Records, in vinile e digitale, arriva The Deagle con Kowloon. Con Kowloon, traccia numero uno di questo nuovo appuntamento. E voi che ci state ascoltando, cosa state facendo in questo momento? Magari starete girando per la città in macchina oppure in camera con lo stereo a manetta. Per scoprire quel che state facendo, visto che la nostra curiosità è tanta, potete scrivercelo pure a info@mefmusic.com, il nostro indirizzo mail attraverso il quale potete interagire in presa diretta con noi. E adesso proseguiamo, ci andiamo ad ascoltare la traccia numero 2. Non hanno bisogno di molte presentazioni, probabilmente questa è una delle ultime volte che ascolteremo questo prodotto di due grandi nomi della scena house italiana, Gianni Bini e Paolo Martini, con la loro 9 Month. abbiamo detto altre volte, la traccia si ispira ad un brano anni 90 il cui titolo è Scott Coom. www.mathmusic.com, e questo è il nostro indirizzo web per coloro i quali vogliono tenersi aggiornati sulle news riguardanti proprio lo staff del MEF, e non solo, perché poi cliccando su Download Zone potrete scaricare gratuitamente tutti gli appuntamenti di Ultrasound. Erano Gianni Bini e Paolo Martini, e adesso traccia numero 3, bellissimo remix di Kaiser Disco, già mixato in qualche appuntamento passato di Ultrasound. Arrivano loro, This Is The Night con Animals In The Space. Animals in the Space era la traccia numero 3 e mi rivolgo soprattutto a voi produttori e remixer, cari ragazzi. Eh sì, perché vi invito a visitare il Night Portal Notte Insonne all'indirizzo web www.notteinsonne.it. Troverete molte curiosità in merito al DJ Contest 09, appuntamento per tutti gli amanti di questo settore che si svolge ogni anno grazie appunto allo staff della Notte Insonne. Intanto, traccia numero 4, ottima questa release uscita da poco per la tedesca Sport Music, supportata dallo straordinario Dubfire. Sto parlando di Beckers and Hatfield con You're Not Me. Traccia numero 4. Straordinari Beckers and Heightfeld con You're Not Me. Ci siamo oramai allontanati dalla zona di apertura, se così possiamo chiamarla, e sta per arrivare un'altra nostra vecchia conoscenza. È Sweet Lies, pronta ad uscire dalla nostra programmazione. Loro sono i grandiosi Boca Shade. E qui, ragazzi, ho avuto la possibilità di ascoltarli ultimamente dal vivo al Cocoon di Francoforte e devo dire che è stato davvero uno spettacolo pazzesco ed emozionante. Dal vivo sono ancora meglio, credetemi. Traccia numero 5, Boca Shade con Sweet Lies. Io sto muovendo la testa su e giù perché ormai il ritmo, il sound mi ha catturato. Siamo ascoltati la traccia numero 5, adesso ritorniamo sul beat di un artista ascoltato in apertura con Kowloon, traccia numero 3 del suo EP che porta il titolo di Neal Beater. Questa che sta per entrare è la sua traccia numero 4, Titan and Enceladus. Lui è sempre di Diggler. We'll be right back. Posizione numero 6, questo frizzante viaggio sonoro, bellissimo pezzo firmato da D. Diggler. Era Titan and Enceladus. E prima di proseguire, brevissimo riepilogo di ciò che abbiamo ascoltato fino ad ora. Traccia numero 1, D. Diggler con Kowloon. Alla numero 2, Gianni Bini e Martini con Nine Month. Traccia numero 3, This Is The Night e la loro Animals in the Space. E poi ancora a seguire traccia numero 4, Beckers and Heightfield, You're Not Me. Alla numero 5, Boca Shade con Sweet Lights. E poi ancora posizione numero 6, Diggler con Titan and Enceladus. E alla numero 7 arriva NoHo con 23 Room. Numero 7 della nostra Ultrasound. Tre tracce per l'EP del siciliano combo con Gnonno, già conosciuto per prodotti usciti su altre etichette come Splito Sound Records e Kailash Safar Electronic. E a proposito di etichette, fatemi salutare i nostri amici nonché collaboratori dell'etichetta Frequenza Rec, ci terremo assolutamente a farlo. Allora, andiamo avanti e si sta per arrivare alla traccia numero 8 di Unity con El Mariachi. We'll be right back. Il Mariachi resta indubbiamente la traccia più amata in questo momento dalla nostro DJ Stefano Canonico, uscita della label Beat Therapy. Il suo EP si intitola Inner Workings ed io come ogni settimana ricordo che Meth Staff dà l'opportunità ai DJ e produttori di proporre i propri lavori su Ultrasound. Come fare? Semplicissimo, basta inviare una demo a info@methmusic.com. Nel caso in cui verrà ritenuta attinente verrete ricontattati dalla nostra carissima e bellissima Cinzia, responsabile della redazione con tutte le info sulla messa in onda. E adesso ci andiamo ad ascoltare la traccia numero 9, Dema con Tarocco. sicuramente una delle mie preferite. Alla posizione numero 9 era Dema con Tarocco. Come avrete capito, oggi è un po' l'appuntamento in cui stiamo salutando un release che oramai ci portiamo dietro da un po' troppo tempo, all'incirca da un mese, e che lasceranno sicuramente spazio alle nuove uscite. Grande anche questo artista che sta per arrivare alla posizione numero 10. Mi riferisco al disco di Marc Romboy, remixato dal favoloso Hugo in Sonora. Numero 10 il remix di Hugo, e per gli amici che si sono appena sintonizzati vi ricordo che state ascoltando Ultrasound con alla voce Alessio Campanelli, mentre in regia ci sono i cari amici DJ e registi Stefano Calonico e Atti DJ. Vi ricordo ancora i nostri contatti www.mefmusic.com e info@mefmusic.com per interagire con noi in presa diretta in qualsiasi momento della giornata. Potete anche scriverci o ricevere delle notizie in merito a tutto ciò che gira attorno al nostro mondo elettronico. Proseguiamo e arriva la traccia numero 11, Sammy Wentz con Moroccan Desert. Moroccan Desert, il basso incalzante davvero non ti fa restare con i piedi incollati al pavimento. Fighissimo disco questo di Sammy Wentz. Era la traccia numero 11, siamo quasi in chiusura e ci resta da ascoltare l'ultima traccia, ovvero Andrea Mattioli e Gabriel C. Noi cogliamo l'occasione per salutarvi e ringraziarli. Ci hanno omaggiato di questo brano uscito da qualche settimana su Stereo 007 Records. Sto parlando di Twister e noi ce lo ascoltiamo. Mattioli e Gabriel, sì, vi annuncio già tra le altre cose che Andrea sarà presto nostro ospite qui su Ultrasound. Abbiamo ascoltato il bellissimo disco firmato Stereo 007 Records e adesso giusto il tempo di una breve pausa e torniamo nuovamente insieme e si arriva alla zona guest e questa settimana è la volta di DJ Lello Ambrosini. A tra poco, mi raccomando, non scappate. Ed eccoci di nuovo insieme sempre dagli studi del Memphis Staff e adesso è arrivato il momento di ascoltarci il live set del nostro ospite. Questa settimana, come detto in precedenza, alla console di Ultrasound suonerà il DJ Lello Ambrosini. Già all'età di 15 anni comincia a miscelare i primi dischi alle feste private e verso i 18 fece la sua prima apparizione come DJ ufficiale in disco. Dal 93 al 2004 lavora a Radio Club 91, emittente napoletana. Nel frattempo comincia ufficialmente anche la sua professione di DJ in giro per i vari locali della Campania. Molte le collaborazioni con studi musicali. Da settembre 2008 collabora con Tendenze a Radio Show, prendendosi cura di tutto ciò che riguarda montaggi ed editing. Ed è arrivato il momento di ascoltarcelo, cari ragazzi. Alzate il volume dello stereo perché arriva lui, DJ Lello Ambrosini. Thank you. sabato 21 febbraio. Tendenza presenta il carnevale più esclusivo d'Italia at Disco Club Le Rocce. Opening Miss Claudia Pedron DJ. A special guest DJ on Tendenza, The Voice, Dr. Felix, DJ Tony Cortese, Gigi Soriani from Radio Marte. E dal Brasile, Samba Carnival Show. Sabato 21 febbraio, carnevale at Disco Club Le Rocce, via Belvedere, Cervaro, Frosinone. Questa settimana su Ultrasound suona DJ Lello Ambrosini. questa settimana su Ultrasound suona DJ Lello Ambrosini. Oh, awesome.

E siamo arrivati quasi alla conclusione dopo questa bellissima ora sulle note di DJ Lello Ambrosini. Abbiamo ascoltato la sua performance veramente straordinaria. Complimenti, davvero un bel sound. Ed è giunto, ahimè, il momento dei saluti. Come ogni fine settimana, appuntamento finito, però un ringraziamento fondamentale a tutti i ragazzi della MEF Staff, dalla redazione ai due in regia, ovvero Stefano Calonico e Atti DJ. Vi ricordo ancora i nostri contatti: www.mefmusic.com e info@mefmusic.com per interagire con noi. Ed è davvero tutto, ragazzi. Mi raccomando, tra 7 giorni puntuali, sempre su Ultrasound, con i cari amici, e lo ripeto ancora una volta, Stefano Calonico e Atti DJ in regia, e alla voce Alessio Campanelli. Tra 7 giorni puntuali, eh? Ciao ciao!